Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E mi sarebbe piaciuto fare festa con loro, con gli zingari. Entrare nelle roulotte con le tendine di raso, assaggiare un po' di minestra e giocare con i cittini, così mi potevo levare i sandali e giocare tutti insieme, belli sudici e scalzi, a chiapparella e nascondino. Mi chiamo Letizia Lusini, abito a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena. Ho 55 anni, ho gestito un banco di rigatteria, ho una figlia e due gatti. Ci sono delle cose che ci fanno paura e basta. E invece ci sono delle cose che ci fanno paura, forse non ci fanno nemmeno paura, però ce l'hanno indotta. Ci hanno detto che di quelle cose dobbiamo avere paura. E spesso di quelle cose lì, di cui dobbiamo avere paura, da quelle cose lì, siamo terribilmente affascinati. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24. Il programma si chiama Voi siete qui. Raccontiamo una storia al giorno. E oggi in realtà facciamo una piccola eccezione. Perché nella puntata di oggi noi raccontiamo due storie che sono entrambe scritte da, Letizia, che avete appena sentito raccontarsi. E ce ne mandate alcune in realtà. Letizia ci ha mandato esattamente questa mail. Di solito non le leggo le mail che accompagnano i racconti, ogni tanto sì, e questa però è una di quelle. Salve, ho scritto dei racconti sui ricordi della mia infanzia a Siena, la mia città. Amici e conoscenti mi spingono a mandarvene alcuni. Sarebbe bellino sentirli vivi nella vostra bella radio. Sono metà in vernacolo senese con alcune note esplicative. Io ne ho scelti due. È vero che sono due storie diverse, però raccontano più o meno lo stesso ambiente. Raccontano l'infanzia di Letizia, raccontano da una parte il babbo e la bottega del babbo. Uso babbo non a caso perché siamo in Toscana, che faceva il barbiere più che il parrucchiere, anche se era un barbiere un po' approssimativo da come lo racconta lei. E l'altro invece parla di questa cosa qua. Parla degli zingari, degli zingheri, come li chiama lei, come dice che li chiama la nonna in realtà, che arrivava dall'Umbria. E di quella sorta di paura per tutto ciò che è lontano e che è molto diverso da noi, che però ci attrae in un modo fortissimo. Oggi parliamo di quella cosa lì, parliamo di quelle cose che vi fanno paura, che siano gli zingari o che siano... di solito sono le cose forti e incombenti della natura. Il mare è una cosa che spesso fa paura ma attrae, la montagna lo stesso, volare, il cielo, tutte le cose che sono più grandi di noi o che sono molto lontane da noi e che in qualche modo ci tirano verso di loro proprio perché noi dovremmo in teoria respingerle. 349-238-6666 se avete un cellulare tra le mani e volete mandare un sms per raccontarcelo, oppure profilo Facebook Voi siete qui Radio 24. Ma esiste ancora una mail, anche se sembra che non esista più, che è voi siete qui @radio24.it, che è il luogo dove continuare a mandare i vostri racconti. Nella seconda parte, per cercare di capire perché esistono queste paure, come nascono, sentiamo addirittura un antropologo, anzi lo dico meglio, un antropologo. Aspetta, perché ho proprio cercato la definizione. Un antropologo cognitivo. Ma lo sentiamo dopo la borsa. Adesso è il momento di sentirsi due storie, non una. Sono come due piccoli cortometraggi. Alzate un po' il volume della radio e state ad ascoltare Letizia. Il babbo aveva la bottega di barbiere del Rione. Era grande e luminosa. La porta era a vetri con la scritta sopra barbiere in corsivo. Dorata, mi pare. Da fuori si vedevano gli specchi, le poltrone, una pianta alta con tante foglie. Quando entravo sentivo l'odore della schiuma da barba e ancora da più vicino al babbo quello forte delle salviette umide che lui e i suoi lavoranti, li chiamava così, tenevano su una spalla mentre stavano intorno ai clienti. I lavoranti erano due o tre ragazzi dell'orfanotrofio di San Marco che, finita la scuola dell'obbligo, pensavano di imparare un mestiere lì dentro. E inoltre spesso dormivano nel retrobottega, che preferivano alle camerate. Uno di loro era Alfredo. Avrà avuto 15 anni, sì e no. Piccino, scuro, col naso storto. Quando dormiva nel retrobottega si riconosceva perché gli puzzavano forte i piedi. La mamma diceva che fosse figlio di una donnaccia di Roma, dove lui voleva sempre andare a cercarla. E un giorno partì con un istitutore, ma ritornò più triste di prima. Per consolarlo allora gli regalai un disegnino di una bella signora con un cappello rosso e lui mi portò le mentine colorate. Questi lavoranti non imparavano molto, credo, dal mio babbo, perché lui si era improvvisato barbiere in Australia, dove era stato prigioniero degli inglesi per 10 anni in tempo di guerra, E so che la frangetta non la sapeva tagliare. Infatti andavo sempre a scuola con la frangetta storta e la maestra diceva: Letizia, guarda che zazzera storta che c'hai. Meno male che c'hai il babbo barbiere. Il mio babbo era una persona cordiale, affabile, anche per il lavoro che faceva, no? Era il pubblico, quindi fisicamente era una persona piuttosto alta, robusta, sì, un bell'uomo, diciamo, sì. Anche un mio amico, Marco, si metteva a piangere quando doveva andare dal babbo a farsi i capelli. E io pensavo che un po' di ragione ce l'aveva, perché usciva con una specie di fungo secco in testa. Invece, due dei lavoranti diventarono molto bravi e aprirono un bel negozio nel centro di Siena, che esiste ancora. Il babbo lo raccontava a tutti, bello contento, molti anni dopo, quando la bottega di San Marco non c'era più. Un'altra cosa che ricordava sempre, e che ricordo bene anch'io, era che in tempo di palio, in bottega si facevano i partiti. Cioè, i dirigenti delle contrade si riunivano dopo cena e contrattavano sulle sorti del palio. A me mi mandavano via perché è roba da grandi, diceva Alfredo. Il solo ammesso alle riunioni che portava cappuccini e digestivi dal bar era lui, Alfredo. Mi ricordo di uomini vestiti bene, coi cappelli che si chiudevano la porta a vetri alle spalle una volta entrati. Il babbo faceva fare le barbe ai lavoranti e il rasoio lo adoperava lui. Cominciava dalle guance, che diceva di gonfiare al cliente seduto sul seggiolone. Poi gli prendeva la punta del naso con le dita e gliela alzava un poco per sistemare i baffi. A me qualche volta faceva mettere le salviette asciutte sulle spalle dei clienti e nei giorni prima di Natale o nelle grandi occasioni mi faceva preparare il sapone da barba dentro le ciotoline. Facevo sempre attenzione a mettere la dose giusta di acqua, mi erano tutti contenti di come facevo le cose. A me piaceva l'odore di mandorla del sapone e mi sarebbe piaciuto affilare i rasoi con la cinghia, ma quello era un lavoro delicato. Anche la macchinetta per la sfumatura la adoperava solo il babbo. Un giorno il babbo cascò dalla lambretta e si fece molto male alle gambe. Per un po' la mamma aiutò i lavoranti a fare le barbe. I clienti però diminuivano. Il babbo tornò al lavoro, ma aveva sempre problemi di flebite. Agli inizi degli anni 70 chiuse la bottega. Io mi iscrissi alle superiori. Alfredo si sposò con una ragazza di Montepulciano che aveva conosciuto al Palio di Luglio e tornò a Roma. Sono quel chi sono, non faccio la vita che fai. Io vivo, immagini te la città, non vivo come te. Sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada. E tu chi prendi io con di me? Gli Zingari, o meglio, le Zingari, come diceva la nonna che veniva da Monte Gabbione in Umbria, arrivavano con roulotte grandi e ammaccate. Avevano dei colori spenti, le tendine di raso e le nappine ai finestrini, e un cane o due, spelacchiati, a corsa dietro. Si sistemavano alle fonti di ovile perché ci avevano vicino l'acqua. Una volta arrivati, io li guardavo dalla terrazza, scendevano dalle macchine parlando a voce alta in una lingua strana, con voci da orchi e da orchesse. Le donne erano alte, magre, con certe gonne lunghe e larghe dai colori sgargianti, capelli lunghi e neri neri, con la treccia. A volte portavano fazzoletti con le monetine annodati dietro la nuca. Ci avevano sempre campanelle d'oro alle orecchie, e d'oro era pure qualche dente che si vedeva da vicino quando aprivano le bocche. Gli uomini invece portavano vestiti neri, col gilet dorato, baffoni neri, un orecchino all'orecchio. E avevano anche loro qualche dente d'oro. Siccome si mettevano tutto questo oro addosso, di questi zingari si dicevano cose molto brutte, che rubavano ogni ben di Dio, anche i bambini, che ammaestravano come scimmie e ci facevano i soldi, sulle piazze di tutto il mondo. Suntina, una nostra vicina, diceva che le avevano portato via l'anello di fidanzamento con rubino alla bottega degli alimentari, sparito dal dito, senza che me ne accorgessi. Così io, quando andavo in questa bottega e c'era una zingara, le facevo vedere da lontano il serpolino d'oro del battesimo che portavo al mignolo, tenendo il pugno stretto stretto. La zingara rideva e un giorno si avvicinò, mi guardò con due occhioni da lupa, guardò l'anellino tenendo le mani dietro il sedere e disse, mostrandomi quattro denti d'oro, bello, bello. Degli zingari mi affascinava questo modo di vivere diverso da quelli che erano i cliché che vedevo intorno, quelli che vedevo nella mia famiglia, nelle persone che vivevano intorno a me. Agli zingari la nonna portava i tegami di alluminio da stagnare. Si andava insieme, io e lei. Mi teneva stretta per mano. E non si arrivava in fondo alla discesa delle fonti, però. Veniva su uno zingaro in ciabatte e maniche di camicia. Ci salutava con un mezzo inchino. Prendeva il cestino coi tegami e li portava giù, dove erano accampati tutti quanti. Io mi giravo per vederlo meglio, questo accampamento, mentre si tornava in su con la nonna. Ricordo pentole al fuoco, odore di minestra e carne abbrustolita. Tintinnio di monetine, dei fazzoletti e degli strani braccialetti alle caviglie delle donne. «Hai visto come sono sudici?» diceva nonna. Sì, sudici lo erano, le mani e i piedi neri, e da vicino a loro si sentiva puzzo di cerume vecchio. Ma d'altra parte il bagno nelle fonti non lo potevano fare, proibito bagnarsi, c'era scritto su un cartello. Dunque le zingari si lavavano come potevano, in certe catinelle zincate, prima i bambini, poi le donne, tirandosi sui gonnelloni. Gli uomini si diceva andassero a lavarsi ai bagni pubblici, ma forse si lavavano di notte alle fonti, perché nel silenzio qualche sciaguattio si sentiva. La sera uno di questi uomini neri neri tirava fuori un violino e suonava. Una bambina, credo, ma dalla terrazza non vedevo bene, batteva le nacchere e allora tutti si mettevano a ballare. Le gonne delle donne brillavano alla luna e facevano la ruota. Gli uomini giravano loro intorno schioccando le dita, tintinnavano monetine e cavigliere, forse bevevano vino, non lo so. Erano contenti, festosi. Anche i cani spelacchiati correvano e ululavano alla luna. Il babbo, ricordo, guardava assorto e divertito, forse sarebbe voluto scendere giù con loro. E anch'io, moltissimo. Ma mamma e nonna invece guardavano disgustate, con la bocca all'ingiù. Niente da fare, pensavo. E a me sarebbe piaciuto fare festa con loro. Entrare in quelle roulotte con le tendine di raso, assaggiare un po' di minestra, che a volte faceva un buon profumino. E anche giocare con i cittini, neri neri come i grandi. Così mi potevo levare i sandali e giocare tutti insieme, belli sudici e scalzi, a chiapparella o a nascondino. Le zingari vennero per molte estati alle fonti. Ci stagnarono tutti i tegami. Come loro, questi lavori non li sa fare nessuno, diceva la nonna. Poi un'estate andavo già a scuola e mi erano cascati i denti davanti. Li aspettai per giorni, ma non arrivarono. Un cane spelacchiato bianco fece la sua comparsa, ma è un randagio, domani si porta al canile, disse il marito di Suntina. Così persi la speranza di rivederli. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto farmi fare due denti d'oro al posto di quelli che mi erano cascati. E avevo già programmato tutto. Mi faccio sciogliere il serpolino d'oro del battesimo dallo zingaro che stagna i tegami, con cui ho confidenza. Ma senza dirlo a nessuno. E faccio una bella sorpresa alla mamma. Così pensavo. E mi sembrava di sentire un violino suonare lontano lontano e avvicinarsi un ciottolio di roulotte vecchie, mentre mi addormentavo e la luna piena guardava tutto dalla sua terrazza, come me e il babbo, assorta e divertita. E uno niente, si immagina subito un Vinicio Capossela vestito come un nomade, un viandante in mezzo a queste roulotte di zingari, come li chiama Letizia. Ogni tanto Bonini si lascia andare, così ci regala questi attimi da Radio 3, anche qui a Radio 24 sullo strumentali. 349-238-6666, si parla di tutte quelle cose, come succedeva per Letizia con gli zingari, continuo a chiamarli così perché questo è il termine che la nonna usava, tutte quelle cose che ci fanno paura, ripeto, forse ci dicono che ci devono fare paura e in qualche modo ci attraggono. È esattamente il caso di Marco da Torino che mi scrive: fin da piccolo i miei e mia nonna mi hanno sempre parlato male dei pagani, cattivi e satanisti. Ho amici pagani e sono sposato ad una strega, addirittura. Questo messaggio è un po'... Facciamo salire un po' di musica, Pietro, che ci sta bene in questo... E poi quest'altro messaggio, qui c'è della psicologia sottilissima. In genere tendiamo ad amare ciò di cui abbiamo paura, nella speranza che ci risparmierà. Beh, mi verrebbe da dire veramente su gli ascoltatori di Radio 24 e di Voi Siete Qui. 349-238-6666. Tutto perché ci ha mandato questa storia, anzi due storie. Letizia. Pronto, Letizia? Ciao Matteo. Come stai? Va bene, grazie. Dove ti trovi esattamente, Letizia? Sono in casa. Sei a casa tua? Ti ascoltavo. Beh, sì, immagino che ascoltassi. Sì, sì. Mi ricordi dove abiti? Vicino a Siena, questo è chiaro. Come dici? Mi dici esattamente dove abiti? Sì, abito a una quindicina di chilometri da Siena. Tu? Sulla Cassia, diciamo. Sulla Cassia. Tu praticamente sei nata e sei cresciuta lì, giusto? A Siena, sì. Cioè, sono nata a Siena e poi mi sono trasferita in questo paese a 20 anni. Insomma, però la tua vita si è svolta più o meno in quella zona lì, e si sente anche molto, devo dire, che si sente anche nel modo in cui scrivi. Io ho cercato di dare un senso a quello che scrivi, però sicuramente letto da te e col tuo accento ha molto più significato. Mi ripeti esattamente che cosa hai fatto nella vita? Perché non l'ho capito molto bene. Ma senti, praticamente ho gestito una bancarella fino a dicembre del 2012, per una ventina d'anni di rigatteria, cioè piccola oggettistica varia. Ma quindi facevi mercati? Sì, facevo mercati e mercatini dell'antiquariato, perché avevo cose vecchie, insomma. E adesso hai chiuso? Ho chiuso, perché poi quella, diciamo, è stato un amore, poi anche gli amori, visto come, insomma, finiscono. E poi anche perché mi piaceva occuparmi di quello che mi piace fare, insomma, scrivere, leggere, e non volevo arrivare alla pensione. E lo fai molto bene, complimenti. Grazie, mi dici più o meno che tipo di oggetti vendevi, per curiosità? Nel senso che io mi sono sempre domandato dove i rigattieri trovino la roba. Senti, ma io soprattutto biancheria, io avevo biancheria vecchia, insomma, anche qualche cosa di antiquariato, insomma, biancheria di fregio, diciamo. E dove le trovavi? Cioè, le persone che fanno questo mestiere hanno delle persone di fiducia da cui compra, dei fornitori? Sì. Cioè non si va in giro per garage, vecchie cantine a cercare la roba? Sì, anche, c'è sempre questo, ora specialmente, no? Ora specialmente fa capire molto. Torniamo alle due storie, anzi alla prima, alla storia del barbiere, del tuo babbo che faceva il barbiere, e mi fa ridere questa cosa che di fatto se l'era inventato da prigioniero in Australia. Sì, se l'era inventato, perché era una persona intraprendente, quindi si era inventato questo lavoro. Non c'è più il suo negozio però di barbiere, vero? No, non l'ha preso nessuno? No, non lo fece nessuno, no. Fu chiuso proprio negli anni 70, mi sembra, forse 72-73. In compenso però due suoi aiutanti li hanno aperti e sì, ci sono ancora questi negozi. Sì, uno importante, insomma, a Siena, diciamo, un bel negozio che ancora esiste. Sì. Ah, che è eredità del tuo babbo, quindi per questo che lui era contento nel raccontarlo. Eredità, perché aveva, diciamo, tirato su due bravi barbieri, nonostante lui forse non ci fosse proprio tagliato, però... Invece sempre rimanendo sul babbo, invece sulla mamma e la nonna, io mi vedo questa scena, no? di questi zingari che arrivano, e tu e tuo papà che avete voglia di starci, no? Di andare a bere una cosa, di stare con... e la mamma e la nonna invece che li guardano da lontano, un po' schifate. Mi dici che cosa, ce l'hai ancora questa fascinazione per questo popolo, per questa gente, oppure è una cosa che appartiene all'infanzia? Sì, mi sono rimaste tante cose, insomma, dell'infanzia. non volendo, no? Diciamo che questo come dire, è stato uno stimolo anche per delle scelte nella mia vita, non so, anche per l'amore per i viaggi, per tutto quello che era il diverso, la cosa, anche la stravaganza, diciamo, no? Sì, Letizia, sì. E poi ti saluto, mi dici che cos'è il serpolino? Il serpolino è un anellino d'oro fatto a piccolino. Serpe. Ah, ok, semplicemente. Sì. Ok, io mi immaginavo chissà cosa. Invece è un che non so se usa sempre, ma insomma ce lo regalavano da piccolini. Letizia, capito? Ti ringrazio, sì, molto per averle mandata le tue storie e continua a scrivere. Se ti capita e hai voglia, noi siamo qui. Grazie. Buona grazie. Giornata. Ciao Letizia, grazie. Ciao. Voi siete qui. Credo che abbia bisogno di un direttore della fotografia, Letizia, perlomeno a giudicare dalla foto che si è sicuramente scattata da sola e che ci ha inviato e che trovate sul nostro sito, la pagina di Voi Siete Qui, come al solito. È una foto scattata dal basso, che già, devo dire, le foto scattate dal basso non rendono mai molto merito al soggetto, e invece Letizia ne esce comunque alla grande. È solo che c'è una luce, credo che sia un controluce, che però spara nell'obiettivo. Letizia ha comunque dei capelli sciolti, morbidi, castani, ha degli occhiali, quelli con la montatura stretta, quella che di solito hanno le professoresse. Ed è decisamente una bella donna. Diverso. Aggettivo. Totalmente o parzialmente opposto per caratteri intrinseci oggettivamente rilevabili. Premesso a un sostantivo collettivo o a un plurale, indica piuttosto molteplicità o misura indeterminata, ma considerevole. Come sostantivo maschile, persona che presenta attitudini diverse da quelle considerate come normali dalla maggior parte della gente. Etimo, latino diversus, participio passato di divertere, deviare. Una mail, la leggo in modo che do senso al fatto che ancora leggiamo le mail e non solo Facebook e quelle menate lì e Twitter. Cristina ci scrive: io ho il terrore del fuoco, ma ne sono attratta in una maniera incredibile, al punto che appena ho una semplice fiamma, tipo una candela, non riesco a toglierci gli occhi e il profumo che ha il fuoco mi inebria. 349-238-6666. Mia nonna diceva che aveva bisogno avere paura di quelli che vanno in chiesa a leggere i passi della Bibbia, scrive Max. Chiaramente tutti noi siamo abbastanza segnati da quello che ci dicono i nonni, no? Di quello che ci dicono di seguire o di non seguire e di cui avere paura. E poi si solleva chiaramente un polverone sugli zingari, ma gli zingari non sono più così, mi scrivono, e altri invece mi dicono: non sento e non ho mai sentito attrazione per gli zingari, me ne tengo accuratamente a distanza. Mauro da Gorizia. E poi qualcuno, questa è proprio una polemica ancora più sottile: quindi i furti degli zingari sono solo frutto di immaginazione popolare? Questo sì che è un bel racconto, pensa che quasi ci credevo. Sì, tu pensa che se andate tutti a concerto di 1° maggio, noi veniamo a casa vostra, vi facciamo appartamento e anche cacca sul letto. Non è questo che intendevamo dire, semplicemente noi raccontiamo delle storie e poi ognuno le interpreta come vuole. Però anche di questo possiamo parlare col nostro ospite. Vedi che in realtà sembra che facciamo tutto a caso, ma non è così. Anche di questa forma di credenze popolari, più o meno, ma soprattutto di paure, non delle paure in generale, ma di queste paure che proviamo per quello da cui siamo attratti, che spesso è molto lontano, ma soprattutto è molto diverso da noi. E per farlo, come ogni tanto mi capita di fare, interpello qualcuno che ne sa più di me e che lo racconta meglio di me. In questo caso abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa al professor Massimo Squillacciotti, che è docente di antropologia cognitiva all'Università di Siena. Professore, buongiorno. Grazie, buonasera a voi e ai radioascoltatori. Grazie per essere qui innanzitutto. Oggi tutto a Siena si svolge praticamente. Il racconto di Letizia arrivava da 15 km da Siena e lei è a Siena in questo momento, giusto professore? Sì, non solo sono a Siena, ma ho l'impressione di aver conosciuto Letizia Lusini in giro per le campagne senesi. Ah, addirittura? Sì. Quindi questo chiude completamente il cerchio. Bisognerà che la ricerco, non so. Ma quindi lei conosce le zone di cui parla questo Fonti Ovile? Lei parla della zona di Fonti Ovile, sì, alle Fonti di Ovile, certo. Che sono cos'è, un fiume, un corso d'acqua? No, sono le fonti delle sorgenti d'acqua dove si andava a attingere l'acqua, si lavavano panni, c'era della campagna intorno. Quindi erano degli accampamenti ideali, insomma, per dei nomadi. Esatto, che è un fondovalle. Professore, la prima cosa che mi viene da chiederle è che cos'è, in poche parole, l'antropologia cognitiva? Noi studiamo i processi della mente con cui mettiamo in collegamento le diverse cose. E quindi la cognizione è cosa faccio, con che cosa, per fare che cosa. Quindi cerchiamo di okay. capire le logiche degli abbinamenti. Ok, quindi riusciamo anche a rispondere alla domanda perché qualcosa che è molto diverso e molto lontano da noi, o sembra diverso e lontano da noi, come ad esempio un popolo che viaggia nomade e non ha una casa ma vive in roulotte, ci fa così paura? Sì, ma io procederei con questo tipo di ordine. Innanzitutto a livello di base, a un primo punto, è che notiamo come in tutti i bambini, non voglio generalizzare, come dire, del mondo, ma nelle nostre esperienze italiane sicuramente c'è, quella che chiamiamo l'angoscia primaria, cioè il risvegliarsi di notte senza sapere, piangendo, urlando, senza sapere perché, non c'è un brutto sogno, no? Quella che si chiama l'angoscia primaria, cioè che sostanzialmente sono scariche emozionali, psicomotorie, ma che diciamo segnalano una paura di diventare altro, bene, di non essere. Ah, quindi è una paura profonda, ma in realtà irriconoscibile, cioè che non si riesce a definire. Esatto, e questo però ce lo dicono gli psicanalisti. Ok, ok. Mentre come antropologo, e noi ci fidiamo. No? dico che in genere noi siamo comandati in buona percentuale nei rapporti tra gli altri, con gli altri, dalla vista, quindi ci colpiscono le differenze. Bene, ciò che è differente ci può mettere paura o contemporaneamente affascinare. Bene. E come però questo diventa una questione culturale? Perché la cultura utilizza questo meccanismo, no, della notare la differenza, sì, per o criminalizzare o per assoggettare alla differenza i nostri. È una difesa del gruppo in qualche modo. Bene? Come okay. dire, noi ci proteggiamo al nostro interno dicendo che gli altri, quelli che sono diversi da noi, sono brutti, cattivi, sporchi, no? Sì. Devianti, no? Diversi. Non a caso poi questo corrisponde ad epiteti, no? Per cui Inuit si venivano chiamati, i popoli del Nord America, del Polo, venivano chiamati eschimesi, cioè mangiatori di carne cruda, bene, come... Ah ok, certo, la definizione cattivo. Chiaramente va di conseguenza all'idea che un popolo si fa di un altro popolo o di, certo, o di un gruppo di persone. È una difesa, non so se abbiamo bisogno di queste difese culturali, tanto più oggi, no? Con il concetto di métissage, però insomma. Ma ecco, contemporaneamente nel ragazzino, ma anche in molti adulti, per fortuna, ciò che non si conosce contiene anche un suo fascino, bene? Sì. Contiene un suo fascino. Per cui se noi siamo stati abituati con la ninna nanna, no? Se lo do all'uomo nero, no? Se lo tiene un anno intero, certo, quello non è sicuramente molto confortante. Appunto, professore. No, guardi, io purtroppo non ho moltissimo tempo, però volevo chiederle, visto che mi è arrivato questo SMS, e volevo chiederle se, so che un minuto non è tanto, però se riesce a spiegarmelo lei, cioè in genere tendiamo ad amare, scrive qualcuno, ciò di cui abbiamo paura, nella speranza che quella cosa ci risparmi. Questo può essere un meccanismo psicologico che esiste, insomma, assolutamente, non lo metto in discussione. Non credo che tutto ciò che non si conosca ci debba affascinare, no? Ecco, può essere una forma di controllo di sé rispetto a quello che non conosciamo, che ci può mettere paura. Penso che invece la conoscenza debba essere debba essere interazione. Bene, certo. Tant'è che nel racconto di Letizia Rusini è affascinata da queste bambine diverse, no? Sente le musiche, ha voglia di conoscere, bene? Chiaro, chiaro, quindi chiaro. Aspetta di anno in anno questi zingari che arrivano. Certo. Professore, poi la saluto davvero, lei ha paura degli zingari? No, assolutamente, assolutamente no, devo dire che... In molte città italiane a un certo punto hanno costruito dei quartieri, delle case nuove, dove ci sono andati a abitare, non so, a seconda delle città, gli albanesi, i diversi, sì, gruppi sociali, sì, diversi. Beh, in molte città i ragazzini del centro andavano a giocare, no? Andiamo dagli albanesi, no? Andiamo a giocare agli albanesi, cioè indicando il posto, perché lì c'era campagna, c'era verde e interagivano con i ragazzini albanesi, per cui insomma questo, no? Chiaro, chiaro. È normale, la banda non è contrapposizione, ma la banda è anche appunto frequentazione, no? Grazie mille professor Massimo Squillacciotti, grazie ancora, arrivederci, a presto, arrivederci. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato e fatto questo programma, ringrazio soprattutto Letizia, la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Gian Piero Riva e abito a Pordenone. La storia di domani è la mia e parla di essere testimoni nell'era dei social network. Questa è la mia storia e io sono qui.